Bella ragazzi, benvenuti e benvenute all'ultima puntata della Finestra sul Giardino. Io sono Edo e oggi chiederò a Fabri, il nostro apicoltore, di raccontarci da vicino chi sono le api. Ma prima, come sempre, sigla! Non vi ho mai detto quanto mi piace questa sigla. Bene, lo faccio adesso. Grazie, Roby. Come vi dicevo, oggi parleremo di api e lo faremo con chi le conosce molto bene. Se pensiamo alle api, ovviamente pensiamo al miele. E questo perché per noi uomini esiste solo quello che produce profitto. Il mondo delle api, però, è molto più complesso e variegato. Esistono api che vivono in comunità matriarcali, api che vivono in piccolissime tribù, addirittura api che vivono da sole. Esistono api che non sembrano api e mosche che si fingono da api. Tutte svolgono un'essenziale funzione ecologica e tutte hanno una storia d'amore con le nostre amiche piante. Siouxsie and the Banshees con City in Dust. Bene, Fabri, perché non entriamo subito nel vivo della storia e ci racconti un po' chi sei e perché conosci bene le api? Ciao a tutti e a tutte, e grazie per averci seguiti fin qui. Come dicevi, sono un apicoltore, un piccolo apicoltore per la precisione, ma diciamo che amo tanto le api. L'attrazione verso di loro nasce nell'infanzia. Il primo ricordo di un'ape è ancora vivo. Stavo seduto in un prato, offrivo dei fiori di tarassaco a un'ape che in totale tranquillità ci passava sopra per succhiarne il nettare. Ebbi già allora, diciamo così, la percezione che tra le api e noi potesse esistere un legame. Mi verrebbe da dire adesso una reciproca intelligenza. La curiosità e il desiderio poi di conoscere da vicino riemersero molti anni dopo, quando conobbi un apicoltore bolognese che era disposto a insegnarmi. Uno con molti alveari, un produttore molto importante e conosciuto a Bologna. Imparai lì i fondamentali e imparai quali erano le esigenze, le aspettative e anche gli obiettivi, chiaramente, di un imprenditore apistico, di un vero e proprio allevatore di api. Imparai, ad esempio, che le grosse produzioni di miele si fanno ai margini delle grandi coltivazioni. C'è infatti una comunicazione imprescindibile tra le aziende apistiche e le aziende agricole. Per due motivi. Il primo è che agli agricoltori fa comodo il servizio di impollinazione reso dalle api e gli apicoltori producono sui campi di medica, di coriandolo, di girasole delle notevoli quantità di miele. Il secondo motivo è che poi quando le aziende agricole devono trattare i campi con erbicidi o pesticidi, fanno una telefonata, chiamano gli apicoltori che devono affrettarsi a quel punto a spostare i loro apiari in posti più sicuri. Imparai grazie a questo apicoltore alle prime letture che le api hanno anche un sacco di nemici, ma veramente, veramente tanti. Oltre all'agricoltura convenzionale, che può regalare produzioni formidabili di miele ma anche togliere tutto, e oltre alla pressione umana sugli ecosistemi e all'urbanizzazione, le api sono insidiate da tantissime altre minacce, da malattie, parassiti, eccetera. La principale di queste è un acaro, un pidocchio chiamato Varroa destructor, che aggredisce inizialmente la covata, poi quando il livello dell'infestazione è fuori controllo, aggredisce anche gli adulti indebolendo le famiglie, compromettendo il loro sistema immunitario e portandole al collasso. Viene dal sud-est asiatico e si è diffusa in quasi tutto il mondo e in Italia circa 40 anni fa. E indovina per mano di chi, Edo? Tiro a indovinare. Dell'uomo. Bravo, domanda troppo facile. Dovete pensare che infatti lo sviluppo dell'apicoltura da reddito è molto recente. Si chiama apicoltura razionale perché utilizza arnie standardizzate con favi mobili, cioè ispezionabili, scambiabili, utilizzabili per la raccolta del miele senza la necessità di distruggere o danneggiare gli alveari come invece si faceva prima. E ha poco più di 100 anni. In questo breve periodo si è diffusa però a livello globale e in pochissimo tempo si è capito che un alveare o un'ape regina, ad esempio, potevano essere spediti via posta da un capo all'altro del mondo. Apicoltura globale quindi con tutti i rischi connessi, uno di questi appunto l'acaro responsabile della moria di api di cui si parla da decenni. Allora mi è venuto da pensare, cioè la stessa apicoltura quando è condotta in un certo modo, quando è condotta intensivamente, può nuocere a se stessa. Dopotutto, ripeto, parliamo di una forma di allevamento, anche se non stanno chiuse dentro un capannone ad atmosfera controllata come i polli. Una forma di allevamento che ha bisogno di tecniche invasive che fanno molto comodo all'allevatore che ci deve lavorare, meno all'animale. La stessa arnia, ad esempio, con i favi costruiti sui telai di forma rettangolare, non è lo spazio più idoneo per le api, ma è molto efficiente per il lavoro dell'apicoltore. Va detto che il fine ultimo di questo lavoro è comunque la sopravvivenza delle api. Le api non vengono macellate, questo è chiaro. Ma è importante sottolineare che l'intervento umano è purtroppo imprescindibile. È infatti quasi dimostrato che senza l'intervento umano costante le colonie allevate di api smellifera possono sopravvivere al massimo un paio d'anni. Secondo questo punto di vista si può essere apicoltori quindi solo con la consapevolezza del sacrificio, se no è una battaglia persa. E in tutti i casi è una battaglia persa, ci sono tristi prospettive per l'apicoltura. Insomma, quell'intelligenza che vedevo da piccolo, quel leggersi dentro reciprocamente, cominciava ad apparirmi in realtà come un'ostinazione donchisciottesca. L'apicoltura come un'attività molto romantica, ma dal futuro fosco. Il declino degli insetti impollinatori è infatti attestato su scala globale al 40% di specie in via di estinzione. Agricoltura, urbanizzazione, inquinamento, distruzione di habitat, specie invasive stanno causando ogni anno una perdita del 2% degli insetti. Alcuni recenti studi hanno dimostrato che fino ad ora abbiamo perso circa l'80% degli insetti in alcune zone urbanizzate. Questo può essere una catastrofe. Immaginate di sedervi in veranda una sera d'estate dopo cena in un mondo senza insetti. Dopo aver mentalmente gioito perché non ci sono più zanzare, tendete l'orecchio e ascoltate. Non sentirete quasi più un suono. Starete vivendo in un mondo in cui regna il silenzio e probabilmente sarete anche tra i pochi sopravvissuti. Come dice un recente slogan, no music on a dead planet. When the service done and the parish have all sung and the mid frequencies come. When your body aches from the unresolved dreams you keep and the hours pass by just left on repeat. It'll be a silent day fighting off the hostiles with her. Lo scenario che ci hai descritto prima di questa canzone ovviamente mette i brividi, però il problema è che se inizi a guardare davvero da vicino il mondo naturale non ti sembrerà nemmeno così lontano. Chi vive vicino ad altri esseri viventi, ad esclusione degli animali domestici, potremmo dire che ormai sono più simili agli uomini che agli animali, vede quell'intreccio invisibile su cui gli ecosistemi sono costruiti. Insomma, Fabri, per farla breve, siamo fottuti. Probabilmente sì. Ma possiamo provare a rendere questa fine un po' più dolce. E lo possiamo fare proprio iniziando dove le persone hanno ancora un certo margine di manovra, ovvero non tra i campi, simili a tavoli da biliardo della nostra campagna, ma fra i marciapiedi, i giardini e i luoghi periferici delle nostre città. Perché è da qui che sembra che stia avanzando un incredibile riscatto della natura. Mentre l'uomo, cioè, è impegnato a combatterla, diciamo così, in trasferta, andando a disboscare, ad avvelenare e a stravolgere gli ecosistemi, la natura si riprende gli spazi urbani non presidiati. Mentre le nostre campagne vengono irrorate di pesticidi, le città si riscoprono delle insospettabili oasi di biodiversità. Anzi, come ha detto qualcuno, degli arcipelaghi di biodiversità, quasi incontaminata, quasi. Ed è così che anche le api trovano lì un ambiente meno minaccioso, spesso addirittura anche più ricco, con una scalarità di fioriture che offre un'alimentazione continuativa, senza i cosiddetti vuoti di pascolo che ci sono in campagna. Le grandi città contengono poi spesso al loro interno grandi parchi pubblici ricchi di specie vegetali, quasi ogni condominio, quasi ogni palazzo ha un giardino, e poi terrazzi, balconi e ancora quel terzo paesaggio di cui abbiamo parlato in queste puntate, quegli spazi dove l'attività umana si è per così dire distratta e la natura ne approfitta per ristabilire la diversità. Si stanno conducendo studi che hanno individuato nelle api dei cosiddetti bioindicatori capaci di restituirci una lettura molto attendibile dello stato di salute dei contesti abitati dall'uomo, sia rurali che urbani. Le api sono cioè sensibili agli eventuali fattori contaminanti dell'ambiente in cui vivono e sono anche dei bioaccumulatori, cioè accumulano nel loro corpo, ma anche nelle strutture in cera dell'alveare e nelle riserve che mettono da parte, cioè nel miele e nel polline, le sostanze inquinanti con cui entrano in contatto. Da studi effettuati negli ultimi 4 anni utilizzando le api come bioindicatore è stata rilevata nei campioni analizzati la presenza di metalli pesanti e di glifosato, il diserbante che fa tanto discutere e che si trova in libera vendita, ahimè, sugli scaffali dei negozi per il verde. Ottima osservazione, effettivamente, grazie. Anche se da quello che so dal 2022 sarà vietato. Mi sembra molto interessante quello che ci stai raccontando, perché riabilita in qualche modo il ruolo della città nella salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità. Senti, ma è vero che qualcuno tiene persino le api sul balcone? Di' la verità, lo fai anche tu? Sì, è vero. Cioè, non lo faccio io, ma è vero. Il riscatto urbano delle api è un fenomeno che ha preso piede un po' ovunque nelle città di mezzo mondo. In Italia sono anche nate associazioni che seguono i cittadini che vogliono tenere una famiglia di api sul terrazzo. La motivazione è quella di fare didattica, di sensibilizzare il pubblico ai temi ambientali che coinvolgono le api e di raccogliere i fondi per questa causa. Allo stesso tempo il miele prodotto viene utilizzato appunto come bioindicatore e regolarmente analizzato ed eventualmente anche commercializzato. Coinvolgere direttamente le persone, migliorare il loro rapporto con gli insetti, con le api, per mettere in evidenza la loro importanza, può servire anche a far sì che i cittadini possano esprimersi quando serve con maggiore consapevolezza in ciò che riguarda anche la loro salute, o addirittura ripensare gli spazi urbani e creare ad esempio corridoi ecologici tra aree verdi, a promuovere una gestione gentile degli spazi verdi. Bisogna stare attenti però a non improvvisarsi apicoltori, secondo me. Tenere le api sul balcone può riservare anche esperienze spiacevoli o addirittura pericolose. Se proprio amate le api però, vorrei consigliarvi di sperimentare un percorso diverso. Non dovete cioè pensare a diventare apicoltori, bensì a diventare apicultori. Ascoltiamoci prima un po' di musica, poi provo a descrivervi un microcosmo che conosciamo poco. Song for Jesse. Ecco, ci siamo sempre qua durante questa chiacchierata con Fabri, il nostro apicoltore. Siamo arrivati a un punto centrale del discorso, direi. Così come abbiamo provato a raccontarvi in queste puntate precedenti, ciò che fa la differenza secondo noi nei confronti del complesso mondo che ci circonda è senza dubbio l'approccio. Questo vale per le piante e vale per le api. Se non ho capito male, quindi, Fabri, hai parlato di apicultori. Sì. Mi piace pensare che abbia totale dignità di esistere questa nuova figura. Se amate le api, vi consiglio di prendere una strada diversa da quella dell'apicoltura razionale, che è un lavoro impegnativo. Forse avrete sentito parlare di api solitarie. Partiamo da una precisazione. Al mondo non esiste solo l'ape da miele. Al mondo esistono più di 20.000 specie di api. Circa 1.000 di queste si trovano in Italia. Quelle interessanti per la produzione di miele in realtà si contano sulle dita di una mano e non sono nemmeno tutte allevabili. Vengono raggruppate in una superfamiglia detta degli Apoidei. Tutte sono fondamentali per la vita perché impollinano più dell'80% delle piante, sia coltivate che selvatiche. Parliamo perciò di numeri da capogiro. Gli Apoidei sono per la gran parte api solitarie, cioè non fondano colonie numerose come le api da miele e i bombi. Quindi se si esclude l'accoppiamento, il resto della loro vita è passato in solitudine, alla ricerca del cibo per sé e per la loro progenie. Tra queste 20.000 specie vi sono enormi differenze fisiche, alcune non superano i 3 mm, altre arrivano a 3 cm, alcune sono buffe e pelose come piccoli orsi volanti, altre sono glabre, magroline e più simili a moscerini. Tutte sono innocue, tutte visitano i fiori per tutta la vita, tutte sono fondamentali ai fini dell'impollinazione e pur non essendo allevabili, e per questo ignorate dall'uomo, sottovalutate, disprezzate e a volte anche perseguitate, l'ONU, quindi non Fabri, ha valutato che il valore economico del loro lavoro sfiora ogni anno i 600 miliardi di dollari, ma pochi lo sanno. A noi le api da miele tornano comode perché producono beni di consumo e generano profitto, ma sono le api solitarie le vere custodie della biodiversità. Il loro percorso evolutivo è andato spesso di pari passo con quello delle piante che visitano, al punto che ci sono numerosi casi di alta specializzazione dove una particolare specie botanica è visitata solo da una specifica specie di ape. In più consideriamo che spesso queste api visitano specie botaniche che l'uomo considera di interesse nullo perché non sono fonte di guadagno. Però è importante capire che non vi sono piante o api più importanti di altre, non esistono erbacce e non esistono bestiacce. Dovremmo anche abituarci a chiamare api tutte queste 20.000 specie e api da miele quell'unica specie che alleviamo nelle arnie, un po' come fanno gli inglesi. Le parole sono importanti, infatti. Così come è importante considerare l'ambiente in cui viviamo come una rete di relazioni. All'interno di questa rete tutti gli attori hanno la stessa rilevanza, nonostante quello che siamo abituati a pensare. La nostra posizione di umani, quindi, da un lato deve essere ridimensionata all'interno di un insieme molto, ma molto più ampio, e dall'altra, proprio perché le nostre azioni non avvengono all'interno di compartimenti stagni, ognuna ha rilevanza e serve alle altre. Quindi esistono, Fabri, delle pratiche o delle scelte che possiamo fare per relazionarci con queste api solitarie? Possiamo aiutarle nella costruzione dei nidi, perché l'uomo sottrae spazi vitali non solo agli animali di grossa taglia, ma anche ad animali piccoli come gli insetti. Il 10% delle 2.000 specie di api europee è in via di estinzione, invece il nostro apicultore può costruire dei piccoli nidi da tenere in giardino utilizzando canne, pezzi di legno, mattoni o argilla. E se in più l'apicoltore è pure giardiniere, avrà unito anche l'utile al dilettevole. Considerate che il periodo di incubazione delle larve di alcune api è lunghissimo. Spesso da un uovo deposto in primavera nascerà un'ape solo nella primavera successiva. Quindi è importante che questi siti di nidificazione vengano posizionati in luoghi tranquilli e protetti come può essere il giardino di casa. In linea di massima possono bastare un mazzo di canne di bambù oppure prendete spunto online e capirete di poter costruire anche vere o proprie cattedrali per api solitarie. Mi sembra di cogliere quindi una somiglianza tra il nostro giardiniere e il nostro apicultore. A entrambi è richiesto di assecondare più che di progettare e intervenire. Esatto, Edo. Tra il giardiniere classico, che imposta un giardino secondo regole rigide e sottomette gli spazi e gli elementi ad un disegno che andrà perpetuato nel tempo, e il nostro giardiniere che osserva e asseconda, c'è la stessa differenza che passa tra un apicoltore e un apicultore. Il primo deve mandare avanti l'azienda perché sta allevando animali. L'apicultore invece crea una situazione favorevole all'insediamento delle api solitarie e aspetta che arrivino loro a visitare il luogo che ha creato e se decideranno che va bene allora insedieranno lì il loro nido. Quindi il mio consiglio è: costruite un nido, appendetelo in giardino o sul terrazzo, sedetevi e stappatevi una birra e rilassatevi. Sarete così gli apicultori perfetti, sarete dei giardinieri planetari, sarete fautori di una piccola grande rivoluzione ecologica. Procuratevi un libro o consultate un sito per imparare a riconoscerle e comincerete ad amare queste piccole creature così indaffarate a tenere in vita il nostro mondo bistrattato. Thank you. chi altri meglio di Tom Waits poteva accompagnarci a questa chiusura. Siamo arrivati ai titoli di coda. In questo caso la malinconia per la fine del film almeno non è assecondata da quel monotono rullo nero che scorre sempre più verso lo stomaco. Qua potete solo immaginarli i titoli. Vi do una mano iniziando con i ringraziamenti. Innanzitutto Radio Città Fujiko per averci ospitati. Poi Paola, Caro, Matte e Fabri con cui abbiamo scritto e messo in scena queste 5 puntate. Gilles Clément per averci offerto molti degli spunti che vi abbiamo riportato. I 300 scalini, che è il posto in cui abbiamo costruito le nostre riflessioni e proviamo a mettere in pratica quello che vi abbiamo descritto. Vi ricordo che se vi siete persi le puntate precedenti le potete recuperare sul sito della radio e che se volete contattarci per le domande o farci delle critiche potete farlo sui nostri canali social, che sono per Facebook e per Instagram Il Vivaietto Bologna oppure Lapislazzuli Bologna, per parlare con Fabrizio l'apicoltore. Vi lasciamo con un'ultima citazione, anzi una breve poesia di Trilussa. C'è un'ape che si posa su un bottone de rosa, lo succhia e se ne va. Tutto sommato, la felicità è una piccola cosa. Ciao vagabondi e vagabonde. Pronto? Oui? Oui? Ah? Oh. Ah, oh, fantastique! Ok, très bien. Ok, au revoir. Ciao, ciao. Edo? Oui. Edo? Oui. Era Clément. Clément? Sì, mi ha detto di ringraziarti un sacco perché sei veramente il numero uno.